2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 28 novembre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è molto semplice, 2024@radio24.it. Vorrei ringraziare gli ascoltatori che settimana dopo settimana ci scrivono per vari motivi, per porci domande, anche per darci suggerimenti molto spesso preziosi che teniamo in considerazione per poi pensare alle nostre puntate, ma anche molti ascoltatori che ci ringraziano per il podcast, che è uno strumento molto utile e che può essere utilizzato con tranquillità. E questa è la seconda cosa che vorrei dirvi e ricordare all'inizio della nostra trasmissione, cioè la possibilità di riascoltare 2024 in tranquillità durante la settimana scaricando il file MP3 della nostra trasmissione. Il tutto è molto semplice, basta abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni sono online, esistono software che gestiscono i podcast e quindi vi danno la possibilità, una volta settati all'inizio, di non pensarci più e fa tutto il software. Bene, dicevo, le informazioni sono online oppure scriveteci una email. In questa puntata parleremo ampiamente di computer, visto che i computer sono uno dei desideri di Natale, uno dei regali del Natale, e visto che manca circa un mese al Natale, molti si preparano anche a fare questo acquisto, e anche in questo caso abbiamo preso suggerimento dalle vostre richieste, visto che molti ci fanno domande sul mondo dei computer, e dedicheremo buona parte di questa puntata al PC, ai PC, ai computer in generale. Partiamo però da una notizia della settimana. Un paio di giorni fa è stato presentato una proposta di legge in Parlamento per cercare di superare tutti i vincoli che abbiamo ricordato anche recentemente 2024, che fanno sì che non si sviluppi molto il wifi pubblico. In molti paesi del mondo è possibile entrare in un luogo pubblico, che sia un bar, un albergo, un aeroporto, una stazione, collegarsi ad una rete wifi e navigare in internet con tranquillità, senza dover passare per lunghe registrazioni. Beh, in Italia tutto ciò non è permesso, c'è una procedura piuttosto complicata perché il gestore, chi mette a disposizione un hotspot pubblico, deve registrare, deve prendere i dati della carta d'identità o di un altro documento per tenere nota di chi naviga e di chi sfrutta quella connessione. Questo in estrema sintesi. Roberto Cassinelli è un deputato del PDL che ha proposto e ha presentato questa proposta di legge. Ecco il perché della proposta e i contenuti. La proposta di legge è molto semplice, nel senso che parte dalla constatazione che nel decreto Pisanu, che risale al 2005, successivamente agli attentati terroristici che ci furono a Londra nel luglio 2005, vennero adottate una serie di norme particolarmente restrittive. Tra queste norme ce n'è una, appunto, che riguarda il collegamento nell'internet point e prevede che per potersi collegare utilizzando la rete wifi deve essere fatta una identificazione personale tramite un documento di identità che viene dato al gestore dell'internet point, che fa la fotocopia, la archivia, la tiene in un classificatore, a quel punto ci si può collegare. La mia proposta di legge tende a superare fondamentalmente questo, e la mia idea è che il ministro degli interni, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, individuino quali sono i casi in cui si deve realmente procedere ad una identificazione fisica, ma che prevedono anche degli strumenti di connessione alle reti wifi che siano, diciamo, adeguati ai tempi. Io do un modestissimo suggerimento, ma credo che i tecnici poi possono fare certamente di meglio, ed ipotizzo che una volta che uno si siede in un internet point sia il computer a aprire una schermata nella quale è possibile inserire il proprio numero di cellulare. A quel punto il sistema manda un SMS sul mio cellulare con una password e io mi posso collegare tranquillamente e sono identificato, e quindi la tracciabilità è assicurata. credo che questo sia uno strumento che rende tutte le operazioni più agevoli e che possa essere un pochino più moderno di quello tradizionale fino ad oggi adottato. Tenga presente che neppure gli Stati Uniti, che come noto hanno dopo l'attentato dell'11 settembre, nell'ottobre 2001, il presidente George Bush ha adottato il famoso USA Patriot Act, che sono tutta una serie di norme a tutela degli Stati Uniti contro il terrorismo, neanche gli Stati Uniti adottano la nostra procedura. Che lei dice è troppo complicato. Beh, sono, innanzitutto comunque sia non dà nessun tipo di certezza, perché sì, il documento è agevolmente falsificato, e poi è troppo complicata, veramente è una procedura vetusta, ecco. Sì, quindi lei comunque dice, e mi sembra che non solo lei lo dica, è comunque necessario identificare chi naviga in rete. Sì, beh, io dico una cosa, io onestamente dico che sia il ministro interni a determinare i casi in cui è necessario identificare. Ci possono anche essere delle realtà in cui si può ritenere che, non essendo messa in discussione la sicurezza dello Stato, non essendo messa in discussione in pericolo nessuna delle nostre istituzioni, si possono anche prevedere degli spazi di libertà. Questo va certamente approfondito. Comunque sia, io dico che questo decreto preveda almeno uno strumento di connessione fatto in modo informatico. Le faccio una domanda che va al di là di questa proposta, ma al dibattito generale. Quando si parla di internet e degli strumenti che vengono utilizzati su internet, a parte le infrastrutture, la banda larga, eccetera, eccetera, normalmente i suoi colleghi politici, a parte immagino quelli che sono i firmatari, ma insomma su quasi 1000 parlamentari abbiamo 14 firmatari, ecco, capiscono di che cosa stiamo parlando oppure faticano? Dunque, lei tocca un tasto molto delicato, nel senso che secondo me non solo nell'ambito dei parlamentari, ma più in generale non c'è la consapevolezza ancora oggi nel nostro paese della straordinaria potenzialità che il mondo web ci offre. È ovvio che internet va utilizzato sempre nel rispetto della legalità, non va utilizzato come strumento per diffondere cattivi pensieri, però è certamente un patrimonio culturale a cui tutti indistintamente possono accedere e possono arricchirsi. Quali sono, a suo parere, le possibilità che questa proposta venga messa in discussione e poi approvata? Ma guardi, non so la proposta, perché lei sa meglio di me, ci sono 3.000 proposte depositate alla Camera dei Deputati, quindi è ben difficile che una proposta venga pescata, però c'è una grande attenzione da parte del Ministro Scajola a questi temi. Il Ministro del Turismo, Lore Bambilla, altrettanto è sensibile su queste cose, infatti gli ho scritto una mail in questi giorni segnalando questa problematica. Io sono fiducioso che nell'ambito la scadenza periodica del decreto Pisano deve essere periodicamente riadottato, questo tema possa essere messo all'ordine del giorno e, essendo una cosa, me lo consenta di dire, di buon senso nell'interesse dello sviluppo del nostro paese a costo zero, possa trovare felice accoglienza. Quindi potremmo ritenerla questa proposta di legge uno spunto di riflessione. Era la voce di Roberto Cassinelli, che è deputato del PDL. Ci sono anche due firmatari del PD tra i 14 che hanno firmato questa proposta di legge. Gli altri sono del PDL, quindi della maggioranza. La procedura degli SMS, che ricordava Cassinelli, come metodo di registrazione viene già utilizzata, ma è regolare quando un operatore di telefonia mobile a farlo, magari quando offre connessioni Wi-Fi in aeroporto. Non sarebbe pienamente regolare negli altri casi, ma diciamo che viene tollerata dalle autorità. La proposta di legge quindi servirebbe per regolarizzare queste procedure, comunque per, come dicevo prima, riflettere su un caso in cui la burocrazia frena lo sviluppo della tecnologia e a volte non è nemmeno efficace allo scopo, cioè quello di individuare i terroristi, che questo è un tema di cui si parla molto. Probabilmente sarà necessario, ma questo sarà compito sia del mercato ma anche delle associazioni di categoria, fornire una piattaforma tecnologica per erogare questo servizio di registrazione. Quindi non parliamo di una cosa a costo totalmente zero, ma sicuramente a basso costo. Magari Federalberghi potrebbe pensarlo per tutto il network di alberghi in Italia per erogare il servizio di wifi, che in alcuni casi costa molti soldi e non ha senso il prezzo che viene offerto questo servizio, oppure a volte non è addirittura disponibile. È stato approvato questa settimana il pacchetto telecomunicazioni europeo in modo definitivo. Il testo dovrebbe rafforzare la concorrenza sul mercato europeo e proteggere i diritti degli utenti ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2011. Sempre grazie alle decisioni che vengono prese a Bruxelles, questa settimana gli operatori di telefonia mobile italiani hanno accettato di abbassare il tetto massimo del prezzo di un SMS inviato e ricevuto in Italia. Da gennaio ci saranno novità anche per la tariffazione delle telefonate, che sarà calcolata a secondi per i clienti che lo richiederanno. Per quanto riguarda il costo degli SMS, dal prossimo gennaio ogni messaggio non costerà più di 13,2 centesimi di euro, un tetto che si allinea quindi alle tariffe previste in roaming imposte dall'Unione Europea a luglio, come ha spiegato a Radio 24 Corrado Calabro, presidente dell'Autorità per le Comunicazioni. Le modalità sono diverse perché ognuno le include nei propri piani tariffari, che giustamente sono diversificati, perché non ci deve essere intesa tra gli operatori, la concorrenza deve restare aperta e vivace come attualmente. Però non era ammissibile che, seppur in nome di un sacro principio come la concorrenza, un SMS spedito da Amsterdam a Milano costasse meno di uno spedito da Pavia. Questo urtava con principi giuridici, anche se non espressamente recepiti in norme di legge, urtava pure col buonsenso, col senso comune. Dopo un'interlocuzione piuttosto serrata e qualche momento così di incertezza, do atto agli operatori di avere convenuto su questi criteri e di avere depositato presso l'autorità delle proposte che noi consideriamo tra virgolette impegni, e che faranno sì che decorre dalla fine di gennaio tutti i cittadini possono accedere a tariffe così adeguate. E noi vigileremo comunque con un monitoraggio continuo a che gli impegni assunti trovino pratica applicazione e coerente seguito. Quindi possiamo dire che questa non è un'imposizione dell'autority, cioè questi tetti non sono imposti? No, sono offerte fatte dagli operatori in seguito ai ripetuti e insistenti inviti di questa autorità, ma che hanno evitato che noi dovessimo adottare un atto autoritativo. E possiamo dire che queste novità arrivano dopo alcune decisioni che sono state prese a livello europeo? Sì, a livello europeo la decisione riguarda gli SMS spediti all'estero, loro non hanno competenza all'interno dei singoli paesi, ma noi abbiamo ritenuto che sarebbe stata una discriminazione inversa che un SMS spedito all'interno del nostro paese costasse di più che un SMS spedito dall'estero, e devo dire insomma che alla fine gli operatori si sono convinti e hanno fatto le proposte ragionevoli e convenienti. Lei ha detto che nei prossimi mesi cercherete di spostare l'attenzione degli operatori sulle tariffe per connettersi ad internet. Questo che cosa significa? Sì, questo però ancora è, diciamo, allo stadio di pre-elaborazione, quindi non posso anticipare più che tanto, però vogliamo la trasparenza e vogliamo soprattutto che ci sia corrispondenza tra quanto offerto e quanto realmente poi utilizzato. Per esempio vengono vantate velocità di 20 megabit che poi in concreto si rivelano di 7 o ancora meno. Ecco, questo non sarà più consentito. Noi abbiamo fatto una convenzione con la Fondazione Bordoni per avere un meccanismo che consenta agli utenti di verificare la reale velocità di trasmissione utilizzata, in maniera che la larga banda possa finalmente instradarsi su questa autostrada del futuro. Quindi questo sia per quanto riguarda la banda larga fissa che quella mobile? Sì, sì, sì. Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Dal vostro punto di vista c'è ancora molta confusione sui piani tariffari degli operatori, sia fissi che mobili? No. Guardi, i piani sono molteplici e forse anche alcuni complicati, però innanzitutto noi non restringiamo la concorrenza, campo libero alle offerte da qualsiasi parte provengono. E poi, a parte questo, questi piani ci deve essere sì garantito questo limite che ho detto prima e anche questo modo di tariffazione a seconda in qualcuno di questi piani, ma poi l'utente deve poter scegliere tra molteplici possibilità offerte. Sono complicati, ma noi già abbiamo fornito dei criteri di raffronto che agevolano grandemente l'utente e per di più anche abbiamo fornito dei motori di ricerca che per le soluzioni più complicate, per le proposte più raffinate e complesse, ugualmente consentono al consumatore di orientarsi con sufficiente chiarezza. Queste le parole di Corrado Calabro, il presidente dell'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni. C'è però da registrare la reazione di quasi tutte le associazioni dei consumatori che ritengono i prezzi degli SMS in Italia tra i più alti in Europa e quindi sostengono che ci sarebbero spazi per un'ulteriore riduzione. Questo è sicuramente molto vero, anche perché tecnicamente il costo di un SMS è molto vicino allo zero. Altro Consumo ha fatto un confronto tariffario sugli SMS scoprendo che il 66% delle offerte sul mercato prevede tariffe già al di sotto della soglia indicata da AGCOM che, secondo Altro Consumo, si dimostra inutile e anzi rischia di legittimare livellamenti verso l'alto. C'è anche un gruppo che fa riferimento al sito internet facciamocisentire.com che propone per il 1° dicembre uno sciopero degli SMS. Adesso cambiamo argomento, parliamo di computer, visto che il computer è uno dei prodotti più desiderati per il Natale, molti ascoltatori ci hanno scritto chiedendo informazioni, anche una panoramica sul mercato dei computer che cambia e sta cambiando molto rapidamente. Ricorderete che poco più di un mese fa Acer aveva annunciato una serie di novità per il mercato della telefonia mobile, soprattutto aveva annunciato l'intenzione nel giro di un paio di anni di arrivare ad una quota nel segmento degli smartphone a due cifre, quindi di almeno il 10%. Questo è sicuramente un obiettivo molto audace, molto difficile da raggiungere vista la concorrenza molto forte che c'è in questo segmento, ma vedremo poi nei prossimi anni che cosa succederà, come si trasformerà il mercato. Questa settimana Acer ha iniziato a vendere il suo primo modello con un sistema operativo Android, quindi c'è un nuovo prodotto che si va a aggiungere alla lunga fila di prodotti con sistema operativo di Google. Finora Acer aveva utilizzato come sistema operativo Windows Mobile, quindi anche per questo grande produttore c'è questo spostamento e questa maggiore attenzione verso Android. Acer ha anche detto in settimana che l'arrivo sul mercato di Windows 7, quindi Windows 7, il nuovo sistema operativo per PC di Microsoft, sta facendo bene alle vendite di computer, confermando quindi quello che una settimana fa aveva detto Steve Ballmer, l'amministratore delegato della Microsoft. Di computer e di sistemi operativi, naturalmente, parliamo oggi con Giorgio Panzeri, direttore di PC professionale. Giorgio, bentornato a 2024. Grazie e buongiornate a tutti gli ascoltatori. Per parlare di computer dobbiamo forse partire dai sistemi operativi, visto che forse le novità più interessanti o comunque più importanti negli ultimi mesi arrivano dal mondo dei sistemi operativi, in modo particolare da Windows 7, ma non ci sono novità solo per il mondo Windows, anche per altri sistemi operativi. È passato un mese da quando Windows 7 è uscito sul mercato. Secondo la voce di Microsoft le cose stanno andando bene, soprattutto dal punto di vista delle vendite. Noi vorremmo sapere da te, Giorgio, visto che tu sei molto spesso attento fin dalle prime ore, anzi forse per Windows 7 già dalla primavera, versione beta, dalla sì. versione beta. Allora, vogliamo innanzitutto avere qualche sensazione o comunque un parere tecnico su questo nuovo sistema operativo. Noi un mese fa abbiamo raccontato un po' di novità, come vanno le cose? Beh, le cose vanno decisamente bene, diciamo che il passaggio da Vista a Windows 7 a Windows 7, come si dice in Italia, è stato veramente quasi epocale, nel senso che comunque ci sono grossissime novità, ma soprattutto c'è un sistema operativo che finalmente funziona bene. Cioè il problema appunto di Vista è sempre stato che era troppo esoso di risorse, che funzionava abbastanza male, che non riusciva a soddisfare quelle che erano proprio le esigenze degli utilizzatori. Con invece Windows 7 le cose sono cambiate, cioè sono cambiate decisamente meglio, proprio perché comunque il sistema operativo funziona con molte meno risorse rispetto a prima, è molto più stabile, quindi funziona anche piuttosto bene, è molto meno invasivo, perché un'altra delle cose che venivano rimproverate a Microsoft dagli utilizzatori era che Vista comunque ogni volta che tu facevi delle operazioni ti richiedeva 60 volte se doveva farlo oppure no, quindi diventava molto invasivo proprio dal punto di vista dell'utilizzatore. E poi soprattutto funziona con una ampia piattaforma di computer, quindi da computer che hanno già anche qualche anno fino ai netbook. Adesso una versione un pochino più tarpata viene utilizzata appunto per i netbook, fino ai computer, diciamo così, con grande capacità elaborativa. Ha introdotto anche tutta una serie di novità, tipo appunto quella che è la possibilità del touchscreen, ma soprattutto con multitouch, tanto per chiarire un po' la cosa, quella che è stata inventata e introdotta da Apple con l'iPhone, no? Cioè la possibilità appunto di utilizzare più dita appunto sullo schermo. Senti, c'è chi dice che Windows 7 è una service pack di Vista, cioè un aggiornamento di Vista, ed è un Vista che funziona. Secondo me è il Vista che doveva essere, ecco, che invece non è arrivato. Cioè nel momento in cui quando Vista arrivò sul mercato c'erano delle aspettative molto alte per il tipo di sistema operativo, proprio perché Microsoft aveva detto che quel sistema operativo introduceva tutta una serie di novità che andavano molto profonde, che andavano da un file system diverso, che permetteva ad esempio la gestione dei dati molto più rapida, proprio tutta una serie di cose che poi alla fine non sono arrivate. Cioè tutte le cose interessanti non sono arrivate. È arrivato un sistema operativo con una bella interfaccia grafica molto diversa, che poi a molti non piaceva, proprio perché aveva tutte queste diciamo così, trasparenze, effetti e così via. Esatto. Sì, sì. E che poi però in realtà di concreto, reale, a livello di stabilità, a livello di velocità e così via non introduceva, cioè nel senso che comunque ci volevano poi macchine molto potenti. Certo. Senti, abbiamo parlato di sistemi operativi, o meglio del sistema operativo ultimo arrivato, quello di Microsoft, perché immagino che quasi tutti i computer che uno va ad acquistare oggi hanno questo nuovo sistema operativo. Sì, esattamente. Diciamo che è un po' stato come quando è arrivato Vista. Dopo qualche mese tutte le macchine che tu andavi a comprare erano con una, diciamo così, un minimo di potenza sufficiente per far girare Vista, e quindi avevano Vista. In questo caso adesso sono tutti 7. Diciamo che il problema grosso, secondo me, a livello italiano, anche se Belmar dice che se ne sono venduti veramente tanti, in Italia non c'è stata una vera politica commerciale per quanto riguarda chi aveva già Vista o chi aveva XP e doveva passare. Mentre all'estero, anche in Europa, non solo negli Stati Uniti, ci sono state politiche di prevendita con degli sconti molto elevati, addirittura fino al 50% in certi posti. Per far passare i vecchi di Vista o di XP, okay. Anche perché sì. Ci sono ancora delle macchine, con molte macchine con XP, soprattutto a livello aziendale. E lì ci sono state appunto delle politiche aziendali molto azzeccate a livello scolastico, piuttosto che ci sono stati tanti sconti, e quindi già prima di uscire il sistema operativo aveva venduto tanto. In Italia non c'è stato nulla, cioè in Italia, salvo il fatto appunto che hai un prezzo per l'upgrade, un prezzo per prodotto diciamo così normale, non upgrade, non ci sono stati sconti particolari. Quindi la limitazione un pochino italiana è stata che un po' di gente non se la sentiva di spendere tutti quei soldi per poter passare appunto da Vista o da XP appunto a 7. Tenendo conto poi che i più penalizzati sono stati quelli che hanno dato più fiducia a Microsoft, perché quando è uscito Vista, ad esempio, la versione Ultimate era quella che era stata sbandierata come quella che doveva fare veramente di tutto, doveva avere dentro tutta una serie di gadget e così via. E questi, se devono fare l'upgrade, devono pagare un sacco di soldi. Esattamente. Perfetto. Dunque, non parliamo più del passato, parliamo del futuro. Dicevo, il mercato offre oggi una variegata possibilità per acquistare nuovi computer e tutti hanno Windows 7, giusto? Sì. Parlando di macchine, ci sono delle nuove macchine, in modo particolare i cosiddetti all-in-one, che stanno vivendo una nuova vita proprio per l'arrivo di questo sistema operativo. Di che macchine stiamo parlando? Sì, allora innanzitutto il 7, la cosa molto interessante che ha introdotto, l'avevamo detto prima, è proprio il multitouch, cioè la possibilità di utilizzare le mani come sistema di input sullo schermo invece della tastiera, insieme alla tastiera più che invece, proprio per certe cose, non tutto. Partendo da questo concetto, i produttori, i più grossi soprattutto, hanno cominciato a realizzare delle macchine che possiamo chiamare all-in-one o LCD PC, cioè nel senso che all'interno del monitor c'è tutto il computer, quindi non c'è il desktop, non è più fatto con una base più un monitor, ma semplicemente un monitor che contiene tutta l'elettronica del computer. Monitor molto grossi, quindi parliamo di prodotti che vanno dal 21 al 27 pollici, quindi molto grossi, e che quindi danno la possibilità, utilizzando le mani, di non solo inserire dati, ma gestire le fotografie, girarle, far tutta una serie di operazioni che prima erano assolutamente impossibili, proprio perché i touch che esistevano una volta erano, diciamo così, puntuali, cioè nel senso che quando tu potevi toccare un punto per volta sullo schermo. In questo caso invece la nuova tecnologia ti permette proprio di avere di toccare lo schermo con un'area molto più ampia e con più punti contemporaneamente. Quindi le mani possono essere utilizzate al posto del pennino, diciamo così. Esattamente. Senti, questi computer quanto costano? E soprattutto per che tipo di utilizzo tu ne consigli l'acquisto? Dunque, i computer non sono, diciamo, economicissimi. Ecco, perché non costano poco. No, esatto. Diciamo che parti dai 1.400 euro in su, diciamo, come dal prodotto base sei su 1.400 euro. Anche perché comunque hanno dei processori abbastanza potenti, di solito hanno dei Core i5, che sono i nuovi processori Intel, e comunque una buona dotazione di RAM, dischi abbastanza veloci e così via. Quindi, e poi soprattutto appunto questo schermo, che è quello che costa di più, proprio perché appunto hanno tecnologia un pochino diversa. Sono, diciamo così, interessanti e utilizzabili soprattutto da chi vuole un sistema multimediale in casa che sostituisca un pochino tutti gli altri computer, dove tu ci puoi mettere tutte le foto, tutta la tua musica e tutto quanto, e dove lo puoi gestire senza avere delle grosse competenze informatiche. Insomma, proprio perché, cioè, sono effettivamente facili? Sono molto semplici, sì, esatto. Visto che si dice spesso che l'industria sta cercando di fare prodotti semplici, e fino adesso non ho visto molte cose semplici da utilizzare. Questi effettivamente lo sono molto più semplici. Sì, diciamo che il concetto parte sempre un po' dallo smartphone, no? Cioè ormai molta gente utilizza gli smartphone, che ne so, con Android piuttosto che gli Apple, quindi gli iPhone e così via. Quindi il concetto è un po' quello, dove tu gestisci le applicazioni, eccetera, eccetera, utilizzando appunto le mani. Dita. Poi naturalmente c'è il mouse e la tastiera, non è che parliamo di computer senza... Sì, esattamente, anche perché se devo rispondere alla posta e devo stare appunto a inserire i dati, diventa veramente lungo. Senti, un'altra novità degli ultimi anni, certo non è una novità degli ultimi mesi, però è un mercato che sta dando molte soddisfazioni ai produttori di computer, è quello dei netbook, da non confondere con i notebook, quindi parliamo di computer portatili molto piccoli e anche molto economici, e molto spesso i consumatori, di fronte a queste offerte, dicono: beh, mi compro un computer con 300-400 euro. Di che macchine stiamo parlando e soprattutto per quale utilizzo? Cioè, comprare un netbook serve a chi e per far cosa? Beh, i netbook hanno avuto un grosso successo perché andavano a rispondere a due esigenze appunto degli utilizzatori. La prima, che era quella un po' dell'autonomia dei computer, proprio perché comunque hanno un'autonomia abbastanza elevata, parliamo di 4-8 ore. E la seconda è quella della portatilità, perché sono prodotti piccoli e così via. Il problema grosso dei netbook è quello che comunque sono basati su un'architettura che è abbastanza vecchia, perché l'Atom, comunque il processore che viene utilizzato per questi computer, ha un'architettura di qualche anno fa, cioè quindi abbastanza vecchiotta. Sì. Quindi non sono sufficientemente potenti per fare tutto. Sono le macchine ideali per chi deve utilizzare il computer in viaggio, quando è in giro, per scaricare la posta, per navigare, per, che ne so, parlare con Skype e così via. Però per tutti quelli che sono le esigenze di mobilità. Se uno vuole un computer da tenere a casa per utilizzare per tutte le esigenze di cui ha bisogno, il netbook non è sufficiente. Anche i netbook nuovi, quelli che diciamo così sono basati su un'architettura che viene chiamata Ion, cioè hanno il processore che è sempre l'Atom, però il, diciamo così, la parte grafica che non è basata su Intel ma è basata su Nvidia, no? E sono più potenti dal punto di vista grafico, permettono magari di vedere video anche in alta risoluzione e così via, ma certe altre cose non le permettono di fare. Oltretutto, mentre da un lato gli ultimi, diciamo così, netbook crescono come prezzo, dall'altro ci sono dei notebook sempre di dimensioni più o meno simili che sono scesi come prezzo. Quindi il delta di prezzo tra un netbook buono, quindi sì, di qualità, quindi utilizzabile anche per altre cose, e un vero notebook che ti permette veramente di fare tutto, ormai si è ridotto anche a 100 euro. Quindi sì, vale la pena certe volte considerare bene a che cosa serve la macchina che stiamo per comprare. Certo, perché ad esempio potremmo parlare 8 ore di netbook e di notebook, sì, però ad esempio molti netbook non hanno il lettore CD e DVD. No, esattamente, no, quasi tutti. Esatto, nel senso che infatti l'installazione del software viene fatta o attraverso chiavetta USB, sì, o comprando un lettore di CD, DVD esterno, chiaramente sempre via USB. Voi avete sentito Giorgio Panzeri, comunque anche nelle scorse puntate di 2024, dire spesso: dipende che cosa uno deve fare, dipende da che tipo di consumatore. È vero che negli ultimi anni le cose sono diventate un po' più difficili nella scelta del computer, perché l'industria dei computer ha creato una gamma così vasta per cui esiste praticamente un computer per ogni utilizzo, un computer per ogni utente. Sì. Sì, sì, esattamente. Diciamo che è importante. Il concetto principale è proprio quello, cioè il partire da che cosa mi serve, a che cosa serve il computer, cosa devo farci. Dopodiché posso andare ad analizzare quelle che sono le offerte e vedere magari di trovare l'offerta migliore, quindi il prezzo più basso. Però il partire dal prezzo è la cosa più sbagliata che uno possa fare, proprio perché comunque magari acquista un prodotto che pensa di aver pagato poco e dopo 2 mesi si rende conto di non poterlo utilizzare per tutte le cose che vuole fare. Sì. Oppure il contrario, cioè nel senso che magari compra un computer potentissimo eccetera e si accorge che in realtà è sovradimensionato rispetto alle esigenze che ha. È sempre importantissimo pensare prima di tutto a cosa mi può servire. Dopodiché, a seconda delle esigenze, uno può vedere se indirizzarsi su un netbook perché appunto magari ha solo esigenze di utilizzarlo in viaggio, piuttosto che, ma soprattutto per quanto riguarda tutta la parte web, no? Quindi posta, internet, eccetera, eccetera, oppure ha esigenze diverse. Quindi, ad esempio, se sono appassionato di fotografia e voglio, che ne so, scaricare le mie foto sul computer e elaborarle, un netbook non va bene, proprio perché il comparto grafico e il processore non sono sufficienti per poter fare determinate cose. Utilizzare Photoshop è impensabile. Sì. Quindi, nonostante Google la settimana scorsa abbia detto il 90% del tempo che uno passa davanti a un computer lo passa collegandosi ad internet, non è sempre vero, quindi bisogna ragionarci bene, bisogna capire quali sono le esigenze. Anche perché quel 10% di utilizzo magari poi ti può portar via il 70% certo, di tempo. Senti, sento parlare un po' più spesso ultimamente dei tablet, che fino a qualche anno fa erano stato un tentativo dell'industria fallito. Oggi ha senso riparlare di tablet? Ha senso, perché stavamo parlando prima delle caratteristiche di Windows 7. Windows 7 anche in questo caso ha introdotto appunto il multitouch. Sì. Il multitouch non permette solo di utilizzare appunto le mani e così via, ma nei tablet, diciamo, a livello di produttività, produttori di prodotti che stanno per uscire, più che di tablet dovevamo parlare di convertibili, cioè nel senso che sono dei veri e propri notebook con la sua tastiera e tutto quanto, con il monitor che può essere girato a 180 gradi, sì, e andare a coprire la tastiera e quindi utilizzarlo proprio solo come tablet. Quindi tu lo puoi utilizzare come notebook oppure come tablet. Ok, okay. In questo caso ci sono una serie di caratteristiche interessanti che riguardano appunto questi prodotti, perché oltre al fatto di poter utilizzare appunto le dita per inserire, per utilizzare gli applicativi e così via, finalmente ci sono anche i dizionari in italiano. Cioè, che cosa vuol dire? Che una delle limitazioni che ci sono state nel passato appunto per quanto riguardava i tablet è che quando tu scrivevi non c'era un dizionario italiano che ti permetteva di convertire lo scritto che tu facevi a mano in digitale. Sì, c'era testo, in testo grafico tradizionale, diciamo così, sì. Dal testo grafico, sì, proprio, sì, alle, sì, lettere, proprio, sì, alla. Adesso invece finalmente appunto con Windows 7 c'è anche il dizionario italiano, quindi l'utilizzo completo di questo tipo di prodotti può essere fatto e quindi dà delle prospettive anche diverse. Sono un pochino più cari, quindi bisogna vedere, nel senso che comunque andranno moltissimo in applicazioni verticali, sì, quindi ce ne saranno, non so, applicazioni mediche, tipo all'ospedale, che, certo, esatto, no? Quindi ce ne sono veramente tante. A livello, diciamo così, più casalingo o anche di piccola e media impresa, forse sono ancora un po' più. Abbiamo qualche limitati. Dubbio. Esatto. Sì, sì, io penso che abbiano ragione quelli che dicono: beh, ci siamo abituati a scrivere con la tastiera ormai da 30 anni, difficilmente uno passerà su un computer a scrivere a mano per poi vedere tradotto il tutto in caratteri in scrittura. Sui notebook, quindi sui computer portatili tradizionali, ci sono delle novità o sostanzialmente stiamo parlando di prodotti che in alcuni casi per i più costosi possono agevolmente sostituire il computer di casa, ma diciamo negli ultimi anni non vediamo novità? Ci saranno delle novità, diciamo così, nel prossimo futuro. Ci sono due piattaforme nuove che stanno uscendo, sia di Intel che di AMD. Ecco, diciamo che sotto questo punto di vista, nel passato fino ad oggi, diciamo, Intel ha goduto del fatto che comunque ha realizzato una architettura che era veramente notevole per quanto riguardava appunto la parte portatili, quindi con molta potenza e poco consumo. Quindi erano le due cose. Adesso ultimamente è uscito anche di Centrino. O Core 2 Duo e Centrino. Adesso poi è uscito appunto con un altro processore, anche lui potente, che si chiama Ultra Low Voltage, e quindi con una bassissima potenza elaborativa, ma comunque con pochissimo consumo, ma con una buona potenza elaborativa. Computer che, diciamo così, processori che consumano più o meno quanto gli Atom, sì, è dal punto di vista del consumo il punto sono di più riferimento, efficienti, sì, esatto, invece dal punto di vista delle prestazioni no, insomma, che sì, sono abbastanza, sì, bassi, quindi ci saranno queste due piattaforme nuove. Le due piattaforme nuove introdurranno anche altre cose, diciamo che però sempre come nel discorso di prima, che cosa ci voglio fare? Se voglio sostituire un desktop non posso andare a comprare un computer che comunque abbia poca potenza, devo comunque pensare di avere una piattaforma che mi costi almeno tra i 1200 e 1600 euro, che abbia un processore potente, che potrebbe essere Centrino appunto, Core 2 Duo, magari non so, a 2 GHz e mezzo e così via, con almeno 4 GB di RAM, un disco fisso abbastanza potente e veloce, e il tutto, diciamo così, con un sistema operativo che funzioni bene. Ecco, tu hai citato di nuovo il sistema operativo. Allora, sicuramente ci sarà qualcuno che dice: ma non esiste solo Windows, esistono anche altre proposte. Beh, ricordiamo che comunque Windows sugli scaffali ha più del 90% del mercato, sì, forse anche il 95% del mercato. Esistono tuttavia i Mac e c'è anche chi utilizza Linux. Tu puoi parlare tranquillamente di tutti e tre perché tu sei trial boot, potremmo dire, cioè tu utilizzi tranquillamente tutti i computer, cioè tutti i sistemi operativi tutti i giorni. Che cosa possiamo dire di Mac cioè che differenze ci sono soprattutto oggi con Windows 7, e poi parliamo anche brevemente di Linux, visto che sì, abbiamo molti ascoltatori affezionati a questo sistema operativo. Beh, Mac, il Mac OS X Snow Leopard, che è l'ultima versione appunto del sistema operativo di Apple, è un ottimo sistema operativo, è molto stabile, molto veloce. Diciamo che da quando è uscita la versione 10.x, diciamo, Apple non ha mai confuso appunto gli utenti, cioè l'ambiente di utilizzo è sempre stato molto simile, quindi ha cambiato relativamente poco. Sono macchine, diciamo, la parte limitativa è che il sistema operativo esiste solo per le macchine Mac, non è possibile comprare il sistema operativo e metterlo su altre macchine. La parte, diciamo, invece così più interessante è il fatto che comunque il sistema operativo comunque è stabile, veloce, dedicato moltissimo a chi utilizza la grafica, proprio perché comunque soprattutto gli applicativi grafici riescono a sfruttare benissimo tutta quella che è l'architettura della macchina, quindi lavorare molto bene. Sono, diciamo così, è uno stile di vita, è un pochino diverso proprio perché la macchina è diversa e l'utilizzo della macchina diventa diverso. Linux invece, secondo me, ha un problema di fondo, che è quello del fatto che comunque quando tu compri una macchina nuova hai già un sistema operativo, cioè nel senso che hai comunque Windows. Cioè non ci sono sul mercato dei prodotti che hanno Linux a bordo. No, c'è stato un paio di esperimenti fatti da Dell e così via, ma poi non sono falliti, abbastanza rientrati. Sì. Anche perché, diciamo, se nel momento in cui io compro una macchina e non ho differenze di prezzo tra Windows e Linux, perché devo comprare Linux nel momento in cui sono comunque abituato a utilizzare quell'altro sistema operativo? Chiaro. Però sta diventando molto importante soprattutto per chi ha delle macchine un pochino più datate. Allora, se ho una macchina ad esempio con XP, e tra un po' XP non verrà più supportato da Microsoft, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma tra un po' uscirà da quello che è cioè non ci saranno più gli aggiornamenti e così via. Se ho una macchina con XP, la butto via e compro una macchina nuova, oppure cerco di aggiornarla in modo diverso? Ecco, Linux ti dà la possibilità di aggiornare, rendere la macchina prestante, veloce, pur non dovendo poi comprarti, che ne so, spendere 200 euro per comprare Windows 7 o così via. L'ambiente sta cambiando moltissimo, sta diventando molto bello, molto accattivante. Anche facile da usare? Facile da usare, sì, esattamente. Ah. Soprattutto le ultime versioni, Ubuntu 9.10 ad esempio, è molto semplice. Hanno fatto una versione anche per netbook che si chiama Remix, con un ambiente un pochino blindato sotto un certo punto di vista, perché deve essere indirizzato verso un utente che non è un utente esperto, sì, no? Però è decisamente semplice, anche l'installazione delle applicazioni viene fatta in automatico, io clicco soltanto su delle icone e lui automaticamente mi installa le applicazioni, cioè sta diventando un ambiente fruibile e utilizzabile appunto, secondo me, appunto su macchine che hanno qualche anno e che quindi sarebbero da buttare via. Ci si può fare tutto, cioè i programmi per scrivere, fare fotoritocco, elaborazioni grafiche, video, eccetera, esistono per Linux? Sì, assolutamente sì. Diciamo che sono compatibili poi con tutte quelle che sono le versioni Windows, quindi non so, OpenOffice è una piattaforma orizzontale, cioè per Windows, per Linux e anche per Mac, piuttosto che GIMP per la gestione delle fotografie, piuttosto che tutti gli altri applicativi come Skype e cose di questo genere che esistono anche per le versioni Linux e quindi funzionano molto più rapidamente rispetto sulla stessa macchina abbastanza vecchia rispetto appunto a Windows. Non abbiamo detto nulla sugli hard disk. Ti faccio questa domanda perché quando ho seguito la conferenza stampa della presentazione del nuovo sistema operativo di Google, che ricordiamo arriverà tra un anno, quindi ci sarà tempo per riparlarne, se ve la siete persa la settimana scorsa nella nostra puntata ne abbiamo parlato, quindi potete scaricarla dal nostro sito internet, i ragazzi o i ragazzacci, come dicono alcuni di Google, hanno detto: noi non daremo supporto agli hard disk, ma ci dedicheremo e ci concentreremo solo sulle memorie allo stato solido. Questo per un motivo di velocità, visto che da un po' di tempo ci sono alcuni computer portatili che hanno a bordo anche la memoria, lo stato solido al posto dell'hard disk. Volevo capire a che punto siamo, visto che fino a qualche tempo fa si diceva che queste memorie costano molti soldi rispetto agli hard disk, che ormai costano molto poco. Sì, la differenza di prezzo c'è ancora, è anche abbastanza elevata, però le cose stanno cambiando rapidamente. Diciamo che secondo me è un mercato che si aprirà molto l'anno prossimo, proprio perché i produttori stanno cominciando a scendere di prezzo soprattutto sui modelli più aggressivi. Ad esempio, banalmente, una delle configurazioni che consigliamo noi, anche sui desktop più che sui notebook, perché sui notebook sarebbe abbastanza difficile, sui desktop è quella di avere un hard disk allo stato solido, quindi un SSD, anche piccolo, basta 64 GB ad esempio, dove tenere tutto il sistema operativo e gli applicativi, e poi un disco che non so, da un tera normale, dove tieni tutti i tuoi grafici, piuttosto che le foto, piuttosto che tutto il video e così via. La differenza è che la memoria allo stato solido, anche se voi dite l'hard disk allo stato solido, che in realtà insomma, non è corretto, ma per farci capire, ha un accesso molto più rapido. È molto più veloce, sì, è decisamente molto più veloce, permette, diciamo che anche gli ultimi sistemi operativi, Google OS lo sarà proprio in modo totale. Nativo. Ma anche Windows e anche Linux hanno, diciamo così, la possibilità di sfruttare le caratteristiche dell'SSD per rendere molto più veloce tutto. Lenovo ha sviluppato una macchina che ancora, diciamo così, è un pochino esoterica perché costa abbastanza tanto, però ha sviluppato questa macchina che permette di accedere a Windows 7 in 15 secondi, partendo appunto da un SSD. Ah, però, quindi quello del... Ecco, la velocità di accesso al sistema operativo, al computer, che è un altro dei temi di cui si discute, di cui si parla, con Windows 7 effettivamente è migliorata o gli annunci non corrispondono alla realtà, visto che voi provate in laboratorio molti computer? Stesso poi faremo appunto una prova comparativa proprio di queste cose, di vari sistemi operativi, stiamo organizzandolo. Esatto. Diciamo che non è così migliorata, è migliorata un po' sicuramente, però non è ancora ai livelli ad esempio di Ubuntu. Un po' di prove che ho fatto anch'io, ad esempio su una macchina, su un notebook normale, quindi con una configurazione non esoterica, quindi una configurazione normale, con Vista ad esempio ci puoi mettere quasi 2 minuti per essere operativo, quindi operativo vuol dire che tu fai partire l'applicazione e l'applicazione funziona, non è che arrivi solo nel desktop, perché spesso uno dice arrivi nel desktop però sotto ci sono ancora i sistemi che stanno lavorando e quindi non sei veramente operativo, quindi ci vuole più di 2 minuti, con Windows 7 ci vuole circa 1 minuto e mezzo, con Ubuntu 40 secondi, quindi c'è una bella differenza. Con Mac? Con me che non è comparabile perché non puoi farlo sulla stessa macchina, sono macchine diverse, però diciamo che anche lì sei sul minuto più o meno. Bene, io ringrazio Giorgio Panzeri per essere stato con noi. Giorgio, è stato un piacere, buon Natale, anche se siamo ancora lontani, comunque buone feste e buon lavoro, a presto. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. E così si conclude anche questa puntata di 2024. Anche questa settimana siamo riusciti a strappare qualche minuto in più per la versione podcast, cioè per il file MP3 che state ascoltando. Grazie come sempre per la vostra gentile attenzione, grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci scrivono. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Cerchiamo di rispondere a tutti. Se ancora non avete ricevuto risposta, riscriveteci tirandoci le orecchie e cercheremo di rispondervi. Comunque attendete qualche settimana perché insomma le mail non sono poche e quindi dateci un po' di tempo per le risposte. Dicevo, è tutto per questa puntata. Vi ricordo il sistema podcast per chi avesse scaricato questo file con altri sistemi. Vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi gratuitamente attraverso appunto questo servizio. Online trovate tutte le informazioni www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana e la prossima settimana sarà con noi in diretta Gianfranco Giardina per rispondere alle vostre domande. Partiremo dai problemi della TV digitale, naturalmente parleremo anche di schermi piatti. Una domanda che ci fate spesso è: meglio il plasma o l'LCD? Alcune note sono di carattere tecnico, altre sono di carattere personale, molto soggettivo, però sicuramente Gianfranco Giardina saprà rispondere ai vostri dubbi. E allora ci risentiamo sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.